Vendo tutto di Matteo Caccia. Il mio divano pesa 40 kg, il televisore 15, la Vespa un quintale, la mia collezione di topolini invece di chili ne pesa 17, i miei sci 2 e gli scarponi 3. Ma a me non interessa più, perché ho deciso di alleggerirmi di tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una coppia di bonghi. Sono le 16.07, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e oggi si parla non solo di viaggi, anzi non solo dei primi viaggi della vostra vita, ma soprattutto dei primi souvenir della vostra vita. Voi avrete fatto un viaggio, diciamo, quello di iniziazione, il primo viaggio che si fa, boh, dipende dall'età, no? 19, 20, alcuni magari pure 16 anni. Si fa un viaggio che è un viaggio quasi formativo e si porta a casa un oggetto di solito. Per sé, dico, non per gli altri, un oggetto per sé, un cosiddetto souvenir. Il souvenir, tra l'altro, visto che qui si parla di cose e delle loro storie e di quello che rappresentano, se vogliamo, ne parlavamo prima col Genovesi anche, cioè il souvenir è l'oggetto che più di tutti uno si compra perché rappresenta qualcosa, no? Cioè, se uno si compra un divano, gli serve il divano. Poi, dopo anni, ci sono dei ricordi, ci sono dei film visti su quel divano, delle cose fatte su quel divano. La bicicletta uguale, uno si compra una bicicletta perché ha bisogno di una bicicletta. Poi, dopo 10 anni, ci è andato in quella zona, ci ha fatto quei 20 chilometri. Il souvenir no, il souvenir è un oggetto che tu prendi perché ti ricorda quel luogo. E il mio souvenir di oggi, Paolino, se mi abbassi la base facciamo sentire di cosa si tratta, è questo. Ora, non pretendo di avere il ritmo nel sangue perché, perché si sente che non ce l'ho, chiaramente. Quello che vendo oggi, l'avete capito, è una coppia di bonghi come molti hanno, ma come molti in realtà non vendono, perché poi siamo sempre lì, no? Cioè, sia ce l'ho anch'io, è facile liberarsi di un bongo. Ok, allora vai, prova tu, ti metti su eBay e lo vendi, perché questo è quello che faccio. Oggi vendo una coppia di bonghi, ma vorrei sapere da voi, 80024 0024, mi chiamate e mi raccontate qual è il primo souvenir che vi siete portati a casa dal vostro primo viaggio. Oppure 349 238 6666, mi mandate un sms, ma preferisco sempre la voce di chi mi racconta le sue cose. 80024 0024. E alle con i bonghi, se volete vederli, radio24.it per sentire la loro storia. Pronti? Via! I bonghi. Coppia di bonghi da percussione, cassa esterna in terracotta e decorata, vera pelle animale. Diametro dei tamburi, 15 cm il più grande, 9 cm il più piccolo, altezza complessiva 19 cm. Perfetti per suonare insieme agli amici o contro i vicini di casa. Valore commerciale 40 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Oggi vendo due piccoli bonghi comprati a Casablanca, anni fa. In quegli anni eravamo io, Federico, Davide e Roberto. Abbiamo preso le nostre paghette da liceali e abbiamo convinto i nostri genitori che un viaggio formativo poco costoso sarebbe stato un buon viatico alla preparazione della maturità l'anno dopo. Ovviamente avevamo visto Marrakesh Express di Salvatores e quindi ci eravamo caricati come delle molle. Ci trovavamo in continuazione a Batantuono e tutte quelle situazioni che ci sembrava avremmo poi dovuto vivere prima o poi anche noi, no? Che se ci ripenso adesso eravamo veramente un branco di deficienti. Il fatto sta che comunque nell'estate del 95 siamo partiti per il Marocco, ripetendo in continuazione frasi tipo «Vamos, vamos, rapidamente!» oppure roba tipo «Se non era per il banco di sabbia, t'avevo bruciato in volata». Ah sì, perché altro che motorini, noi si andava sempre tutti in bici. Casa, scuola e poi il parco. Che, guarda un po' che posticino, altro che il planetario. Non so voi, ma io era anni che non mi divertivo così, ragazzi. Erano anni che non ti divertivi così. Da quando non mi frequenti più a me, perché ricordi che con me ti sei sempre divertito. Di no. Cedrone, dove ti ho portato? Ma dove mi hai portato? Professore? Teachers, guarda un po' che posticino, altro che il planetario. Che poi, cosa voleva dire che erano anni che non ci divertivamo così? Ne avevamo sì e no 17 di anni. Forse volevamo sognare di essere più grandi di quello che eravamo. Anzi, doveva per forza essere così. Per quella stessa cosa che ti fa rispondere 20 alla domanda quanti anni hai quando ne hai 17. e che adesso invece mi fa dire 30 qualcosa invece che 34. Che poi, a mio parere, questa cosa dell'erano anni che non ci divertivamo così è sempre stata un po' stupida. Cioè, sentire qualcuno che vagheggia un passato spensierato, meraviglioso, fa un po' ridere e un po' tristezza. Perché è come se si immaginasse sempre che un altro momento è stato meglio. Che adesso sì, le cose non sono malissimo, però a quel tempo erano meravigliose, come vorrei tornare a quegli anni. È un po' come succede anche con il luogo in cui ci si ritrova. Cioè, se si è in città, si vorrebbe essere in campagna. Si sta da soli e si vorrebbe essere in coppia. Si è in ufficio e si vorrebbe essere a casa. Non sarebbe male essere per una volta nel luogo esatto in cui si vorrebbe stare, no? Insomma, perché deve essere sempre altrove il posto giusto? Nel passato, nel futuro, magari a New York o a Kinshasa. Fatto sta che noi a Casablanca nell'estate del 95 ci siamo divertiti. E non fu solo merito dell'alcol e tutto il resto. No, eravamo bambini che sognavano di essere grandi, che avevano voglia di tornare bambini. Ed era splendido. E caldissimo. Tropical Island, whoa, whoa, whoa, whoa. Era ovvio che mi portassi dietro un ricordo dal Marocco. E se dal Messico si porta a casa l'amaca e dalla Spagna il cappello da torero, dal Marocco mi sono portato a casa due bonghi. Quei bonghi erano preziosissimi. Anche se alla frontiera la guardia di finanza voleva squartarmi le pelli per vedere se dentro ci portavo qualcosa. Non so se era per la barba lunga o per l'odore che avevano i nostri vestiti, ma proprio non sembravano fidarsi di me. La sistemammo alla fine all'italiana, trovando una lontanissima parentela tra il finanziere di Cosenza e il cugino del nonno calabrese di Davide. Erano il primo vero souvenir del primo vero viaggio della mia vita. Già mi immaginavo la frase che avrei detto a quelli con bonghi simili ai miei. Sì, ma scusa, però io li ho comprati in Marocco. Ne fui orgoglioso fino a quando scoprì che sulle spiagge dell'Adriatico erano tra gli oggetti più diffusi, venduti da ragazzi senegalesi e marocchini a 10.000 lire. Ci rimasi malissimo. Però non mi feci abbattere, perché quelli erano i miei bonghi, quelli originali, quelli che li puoi comprare solo a Casablanca. E io non me ne staccavo mai. Quando tornai a casa a settembre provai anche a imparare a suonarli. Tanto cosa sarà mai, no? Mica devi sapere la musica. La musica la sapeva Fede, che suonava la chitarra. Ma per la musica bisognava studiare, e io ero convinto di non averne bisogno. Sentivo di avere il ritmo nel sangue. E di non avere bisogno di lezioni tipo quelle dell'Accademia delle Percussioni di Tullio d'Episcopo. No, io suonavo i bonghi al parco. E al parco uno bravo c'era, eh? Lo chiamavano tutti narcotico. Aveva delle cotolette in testa che lui chiamava dreadlocks, ma che per me erano semplicemente delle cotolette. Lo invidiavo moltissimo, perché suonava meravigliosamente e la gente si fermava ad ascoltarlo. Io mi mettevo di fianco a lui e facevo un paio di colpi. Ogni tanto così, amo di accompagnamento. Chiaramente lui non si curava di me. Primo perché non era una ragazza. E poi perché era decisamente più grande di me. E poi lui fumava di tutto, mentre io sapevo da mio padre che se fumi diventi stupido, e io l'ero già abbastanza. Eppure pauroso, quindi stavo lontano dai pericoli. Tranne questa cosa che andava al parco, che insomma, io non facevo niente, cercavo solo un amico e magari l'attenzione di una ragazza. Insomma, qualcosa di cui andare fiero. Io ci ho provato, però l'unico obiettivo che ho raggiunto è stato essere preso in una retata e portato in caserma per accertamenti insieme ai miei bonghi. Dopo 4 ore mio padre mi venne a prendere e mi portò a casa. Quella sì che fu la mia fortuna. Perché passare delle ore in caserma mi rese famosissimo nella mia scuola e mi attirò moltissime attenzioni, maschili, e cioè nuovi amici, e femminili, e cioè praticamente niente. Però, insomma, le attenzioni femminili a noi uomini in fondo ci bastano. Fu un grande anno, il mio ultimo anno di liceo. Eppure, nonostante tutto, nonostante narcotico, nonostante il Marocco e nonostante il mio splendido quinto anno di liceo, questi bonghi sono in vendita. Il loro valore sul mercato sono 40 euro. La base d'asta qui sono 99 centesimi. Per i vostri, invece, primi souvenir dei vostri primi viaggi, 80024 0024. Messico è nuvole, il tempo passa con l'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere. I miei primi souvenir del primo viaggio senza genitori, serie di orribili stampe seriali dei cartelli della Loira, giacciono in fondo a un armadio a casa dei miei. Ale da Senigallia, invece 80024 0024, sentiamo i souvenir di Luca da Vercelli. Pronto Luca? Pronto? Luca, tutto a posto? Sì. Ok, con chi stavi parlando? No, stavo parlando con una signora, dimmi. Ok, no, dimmi tu, ti sei portato a casa un souvenir da dove? Da Hong Kong, dal viaggio di nozze. Sono portato un aquilone gigante di un'aquila era. Ma Luca, scusami, non era però il primo viaggio della tua vita, spero, il viaggio di nozze? Fuori Italia sì. Ah, ok. Ma sei lì con tua figlia? Sì, lì mio figlio, io sono in macchina. Che è in macchina, quanti anni c'ha? Io, mio figlio, 7 anni. Ah, ok, e l'aquilone adesso lo sta usando lui? No, è fermo, dove abito io qua a Vercelli non c'è vento, quindi... Infatti, quando lo usi un aquilone a Vercelli, scusa Luca? Non ho capito. Quando è che lo usi un aquilone a Vercelli? Appunto, io penso che abitavo a Napoli, quindi... Senti, e dove ce l'hai adesso questo aquilone? Nel garage. Ma chiuso o aperto in no, bella vista? No, chiuso. Ah, chiuso, ovviamente, però hai in mente di usarlo a breve? Sì, speriamo. Ci fai salutare, tuo figlio, Luca, al volo? Aspetta, pronto? Ciao, come va? Tutto a posto? Sì. Come ti chiami? Sono Matteo. Niente, è andato. Loris, ok, Loris, saluta il papà. Ciao, buona giornata. Ciao, Loris, abbiamo saluto. Ciao, Luca, grazie. Andiamo da Luigi, da Milano, pronto? Pronto, ciao Matteo. Ciao Luigi, come va? Bene, bene. Bravo, tu dov'è che sei stato? Guarda, io ho 15 anni, sono praticamente scappato di casa per raggiungere una pseudo fidanzata, sostanzialmente conosciuta durante l'estate, Micaela, ad Innsbruck, e sono andato col treno, ma il treno allora ovviamente era tutt'altro che il treno ad alta velocità, quindi fu un grande viaggio. Lei, scusami, era di Innsbruck, quindi era austriaca? Di Innsbruck, sì. E come vi parlavate? Ci eravamo conosciuti, beh, in inglese, insomma, io un po' 4 parole al liceo più o meno erano le uniche cose che avevo imparato, perché il latino ovviamente non lo sapevo. Chiaro, e quindi sei andato a trovarla e ti sei portato a casa un souvenir. Sono andato a trovarla e ho scoperto lì, e fu una grande sorpresa, 1981, diciamo così, i fast food, diciamo, della catena più famosa, che però in Italia assolutamente non esisteva. Non c'erano, perché erano, che anni erano, Luigi, più o meno? Era il 1981. Ok. E quindi scoprì questo fast food, scoprì che esisteva un modo di mangiare totalmente diverso da quello che io... Ti sei portato a casa un hamburger, ti sei portato a casa, Luigi? No, quello no, perché ovviamente sarebbe deperito troppo velocemente. Comprai una bottiglia di ketchup e me la portai a casa e la tenni con grande gelosia, perché poi i miei amici erano gelosissimi di questa cosa, non avevo mai visto nulla di questo. Quindi l'hai mangiato poi quel ketchup o te lo sei proprio tenuto allora, in bella vista? L'ho tenuto e poi in uno dei 600 traslochi che ovviamente da allora si sono succeduti l'ho persa. Se l'hai perso, ok, perfetto. Quindi sei d'accordo con me che il trasloco rimane il vero e proprio metro di misura per capire quanto una roba è utile e quanto non lo è? Sì, io direi che sono due, Matteo. Uno è il trasloco e l'altro è il cambio di fidanzata. Guarda, ne so qualcosa. Luigi, ti ringrazio molto, buona giornata. Grazie a te, Matteo. Ciao. Buona giornata. Andiamo a Roberto da Firenze, pronto? Sì, buonasera a tutti. Buonasera Roberto. Allora, dimmi tutto. Sono stato per motivi di lavoro in Africa, in quello che oggi si chiama Burkina Faso, allora si chiamava Alto Volta. Allora si chiamava, scusami? Alto Volta. Ah, ok. Quindi, ma quando ci sei andato si chiamava Alto Volta ancora? Si chiamava Alto Volta, sì, il Volta è il fiume che attraversa il paese, ci sono 3 nomi, Volta Bianco, Volta Rosso e Volta Nero. Ma quanti anni fa erano, Roberto, scusa? 1970. Ok, e cosa ti sei portato a casa? Non credo ci sia moltissimo di portarsi a casa dal Burkina Faso, sbaglio. Un uovo di struzzo. Ok. L'uovo però aveva una caratteristica, era stato ovviamente mangiato. Sì. All'estremità più piccola c'era un buco dove ci si poteva infilare il mignolo per estrarre il contenuto, e serviva ai cacciatori del luogo. Io ero al confine con il Mali. Sì. Per nascondere le uova di struzzo piene d'acqua sui sentieri di caccia. Ma a cosa servono esattamente le uova di struzzo piene d'acqua? Perché quando vai a caccia, arco e frecce, intanto ti devi si dovevano sporcare di sterco dell'animale che dovevano cacciare, sì, per non far sentire l'odore. E di conseguenza, dato che lì, quando nella stagione secca si arrivava ai 55 all'ombra... Cioè, dovevano bere, banalmente. Lo nascondevano lungo il percorso teorico di caccia, queste uova... Erano delle borracce, praticamente. Erano delle borracce. Senti, che fine ha fatto l'uovo adesso, Roberto? È in vetrina insieme a tutti gli altri trofei di tutti gli altri... Quindi un souvenir che rimane in bella vista, quindi. Sì, anche perché avevo un'imbracatura di pelle lavorata artigianalmente, non certamente per i turisti, che è una meraviglia. Ah, fantastico. Quindi poi facciamo così, un giorno ti chiamiamo e ti chiediamo tutti i souvenir che ti sei portato a casa per i tuoi viaggi, che adesso sentiamo Patrizia da Roma. Grazie Roberto, ciao, okay, buona giornata. Giornata a tutti. Pronto Patrizia? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Brava. Benissimo. Che carina questa idea del souvenir del viaggio. Ma, nel senso, ma non l'ho inventata io, Patrizia, il souvenir esiste da anni. Sì, ma il souvenir del viaggio, dai, del primo viaggio è particolarmente... Dai, dimmi allora qual è stato il tuo primo viaggio. Allora, il mio primo viaggio importante all'estero è stato negli Stati Uniti, 23 anni, appena laureata. Sì. E sono andata alla E adesso ne hai, Patrizia? Adesso ne ho 54. Guarda, però ne dimostri almeno 28, 29, non di più. Sì, va bene, grazie. Prego. Mi tengo. E quindi sai cosa mi sono portata? Mi sono portata un carry-on, incredibile, un orribile... Dagli Stati Uniti? Carry-on di latta, con dei cavallini che girano, e una canzoncina di queste americane tipo Arrivano i nostri, no? Che fa più o meno, ti ricordi come fa? Oddio no, lo sai che non me lo ricordo, cioè, ci stavo pensando adesso. Ma in che zona degli Stati Uniti l'hai comprata, scusami, un carry-on? Dunque, me l'hanno regalata a Flagstaff in Arizona, un simpatico... cowboy di questi del nord che ci aveva ospitato una sera a casa, e la mattina eravamo io con altri due amici, quando ci ha lasciato ci ha offerto tre regali che erano rispettivamente il carry-on, un cappello da cowboy e una calcolatrice, che all'epoca insomma non è che ce n'erano molte, e ce l'ha fatti scegliere. Io ho scelto per prima e mi sono scelto il carry-on. Brava, dov'è questo carry-on in questo momento? Il carry-on in questo momento mi ha seguito in tutti i miei spostamenti, adesso sta in casa su uno scaffale di libri. E io devo dire che mi sono accorta che ogni tanto lo guardo, pensando a questa... Ma funziona ancora? Funziona? Accidenti, sì che funziona. Ma non ce l'hai sotto mano da farcelo sentire, no? Ah, guarda, da farvelo sentire, sì, ce l'avrei, sto arrivando a casa in questo momento. Però aspetta, stai arrivando a casa, nel senso che c'hai ancora due minuti, perché noi purtroppo dobbiamo chiudere, altrimenti non sarebbe stato male sentire il carry-on. Facciamo così, ti richiamiamo, lo registriamo e poi lo mandiamo un altro giorno. Assolutamente. Ok, Patrizia, grazie a te. Ciao. 800240024. Invece arrivano i messaggi al 349-238-6666. Una bella scacchiera in legno intarsiata a mano, comprata nell'isola di Kirk, ex Jugoslavia. Appena tornata a casa è scoppiata la guerra. Lui, Luis da Treviso. Sono sulla strada padana superiore direzione Milano e con il disco Tropical Island mi sono perso. Mi sembra di stare in Messico. Boh, è partito l'SMS, non lo trovo più. Comunque, 349-238-6666. Io ringrazio e saluto Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi, Stefano D'Andrea e Paolino Corleoni, che forse è il più bravo tecnico. L'abbiamo già detto. Anche Pietro non è male, però Paolino. Domani si cambia genere di oggetto. Non più strumenti musicali, ma attenzione, un elettrodomestico di uso quasi quotidiano. Domani vendo il mio Spremi Agrumi. Per vedere i miei bonghi, invece, andate sul sito radio24.it, e anche voi, se avete dei bonghi a casa, vi prego, liberatevene, perché dei bonghi non sono altro che dei bonghi. Love, love, love.